Volevo dirvi che siete una delle poche cose rimaste della vecchia vita e quindi devo dire che mi date un senso di abitudine di quello che avevo prima del coronavirus. Grazie. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Buongiorno Deborah, come va oggi? Va meglio, devo fare il test al mio collegamento in smart working da casa perché alle 10.30 ha fatto un po' le bizze, ma adesso lo vedo ben impostato e ben intenzionato a farmi lavorare bene quest'oggi. Buona giornata anche a te Mauro, tu come va? Tutto bene, grazie, c'è lo sguardo corrucciato, se vuoi saperlo, di Andrea Roccabella di là dal vetro. Cosa che dice, gli è successo? È proprio preoccupato per il tuo collegamento da smart working, che dice ma speriamo che vada tutto bene, insomma, che il santo patrono dello smart working, non so se ce n'è qualcuno, ma chiederemo, ci assista Luca Cremonese, assistente sul territorio, che naturalmente si affianca all'onnipresente, sempre presente Marco Lombardo, anche se da distante. È mercoledì, giusto Deborah? Perché... È giusto, e abbiamo tante notizie che riguardano il lavoro, naturalmente una declinazione obbligata in questo periodo con tutte le novità che sono arrivate dai vari provvedimenti varati in queste settimane dal governo per fronteggiare la drammatica emergenza economica e lavorativa che deriva dalla pandemia da coronavirus. E infatti la prima statistica che dobbiamo dare è già piuttosto preoccupante. Vado a illustrare? La illustro io, Deborah, perché intanto Andrea cerca di rimediare, di rendere più stabile il tuo eloquio, ancorché da distante. Allora, l'avrete letto sui giornali, l'avrete sentito nei giornali radio, il coronavirus sta cancellando il numero di ore lavorate nel mondo. Ora, questo è un modo di contare che già ci dà la misura della questione. Il calcolo è dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, ILO, il rapporto pubblicato sul suo sito dice che il peggioramento della crisi avrà effetti devastanti sul mondo del lavoro e già avevamo, devo dire, qualche sospetto. La cancellazione delle ore lavorate è del 6,7% nel secondo trimestre del 2020, cioè è calcolata intorno al 6,7% nel secondo trimestre del 2020 e corrisponde a 195 milioni di lavoratori a tempo pieno. Questo significa però che in questo momento più di 4 persone su 5 in tutta la forza lavoro del mondo, sono 3 miliardi e 300 milioni di persone, siamo 3 miliardi e 300 milioni di persone, sono attualmente interessate da chiusure totali, parziali, riduzioni dell'attività produttiva. E naturalmente i settori più a rischio, ce lo ricorda anche l'ILO, cioè l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, gli alloggi, la ristorazione, la manifattura, la vendita al dettaglio, le attività commerciali, lo sappiamo, insomma lo vediamo in Italia, ma poca consolazione, certo, in tutto il mondo questo Covid sta procurando gli stessi problemi. Sentiamo come va il tuo collegamento, Deborah, ora? Allora, speriamo bene, abbiamo fatto qualche piccolo aggiustamento e quindi ditemi voi se mi sentite correttamente adesso, quantomeno un po' meglio di prima. Ti sentiamo un po' meglio di prima e allora potresti annunciare il tema, essendo mercoledì appunto e parlando di lavoro, però so che parliamo in particolare di alcune cose sul lavoro, mi sbaglio? Esattamente, allora intanto sicuramente per annunciare agli ascoltatori che abbiamo un giornale radio del risparmio, oggi un giornale radio del lavoro particolarmente ricco. Il tema di approfondimento della seconda parte della trasmissione sarà dedicato alla gestione del lavoro in emergenza per chi usufruisce della legge 104, che è questa legge speciale che riconosce ai lavoratori che hanno dei familiari in particolare difficoltà appunto di avere dei giorni di permesso dal lavoro nel corso del mese. Poi parleremo anche del bonus di 100 euro per chi nel mese di marzo si è dovuto obbligatoriamente recare nella sede aziendale per lavorare. Quindi a me non spetta, caro Mauro, questo mese, ma li prendi tu, e questa è una cosa che comunque a me fa molto piacere perché io te ne darei molti di più per questa possibilità che mi hai dato di farmi stare a casa bella protetta. Guarda, vedremo, perché chiederemo ai nostri esperti di valore mondiale, in realtà ci sono delle condizioni a cui che bisogna rispettare per avere diritto a questo bonus. Vedremo se rientro nella platea, speriamo ci rientrino i nostri ascoltatori naturalmente. Allora ti consiglio di chiamare l'800 24 00 24 eventualmente per fare la domanda, oppure se vuoi puoi scriverci anche un messaggio al 349 238 6666. Io controllo gli sms e tu i messaggi che arrivano su WhatsApp. Magari ti scrivo ai nostri esperti, che saranno ovviamente di altissimo livello, li presenteremo dopo il giornale radio del risparmio, che invece adesso pregherei di annunciare con l'apposita sigla. Meazza con Rosciani la mattina, in sordi sola meglio medicina. IMSS, parliamo sempre di IMSS e ovviamente ne parliamo tanto più oggi che è mercoledì, ci occupiamo di lavoro e quindi IMSS è anche naturalmente il sito di riferimento per quanto riguarda la richiesta di prestazioni a supporto di lavoratori e imprese che sono stati colpiti dalla crisi del coronavirus. Allora l'INPS ci ha fatto sapere che alle 17 della giornata di ieri le domande per le prestazioni previste dal decreto cosiddetto Cura Italia, il decreto legge 18, e pervenute telematicamente sono più di 4 milioni, corrispondono a 7 milioni 700 mila beneficiari. La parte più consistente, ovviamente, come era facile prevederlo anche perché nello stesso decreto è notevolmente estesa e declinata, è quella delle indennità dei 600 euro. Sono 3 milioni e mezzo le persone che le richieste, pardon, di indennità potrebbero corrispondere poi diversamente. Bene anche, cioè bene si fa per dire, perché tutte queste richieste stanno a testimoniare lo stato di difficoltà in cui versiamo tutti quanti. Congedi parentali 195 mila, bonus per il babysitter 35 mila, e poi naturalmente la cassa integrazione, ne abbiamo parlato, c'è questa motivazione appunto cosiddetta Covid-19 che scavalca un po' tutte le altre graduatorie, ne abbiamo parlato diverse volte qui proprio il mercoledì a 2 di denari. 162 mila domande corrispondono a 2 milioni e mezzo, poco meno di 2 milioni e mezzo di destinatari di provvedimenti di cassa integrazione. Deborah. Allora, non solo in questo periodo molti lavoratori hanno sperimentato la modalità di lavoro in smart working, come abbiamo detto, modalità di lavoro agile, ma oltre a lavorare in remoto stanno aumentando anche le ricerche di lavori da remoto. Ce lo racconta Indeed, che è un'altra piattaforma delle tante delle quali parliamo spesso per chi cerca e offre lavoro, e secondo questa appunto inchiesta che hanno fatto, in Italia le ricerche con parole chiave come lavorare da casa o termini come remoto sono aumentate del 186% rispetto alla totalità di tutte le ricerche effettuate su Indeed a partire da febbraio. Pensa Mauro che il numero più alto di ricerche per opportunità lavorative da remoto risale al giorno dell'8 marzo, che è il giorno in cui le misure per il contrasto del diffondersi del Covid-19 sono state estese a tutto l'intero territorio nazionale. Ci sono anche dei raffronti fra quello che è successo nel nostro paese e quello che è successo in altre zone europee. In Spagna, per esempio, nel mese di marzo le ricerche di lavori a distanza sono aumentate del 255% rispetto a febbraio, quando nel paese, e il picco è stato registrato il 12 marzo, che invece in Spagna appunto è il giorno in cui è stata annunciata la chiusura di tutte le scuole, fino ad aumentare ancora il 14 con l'annuncio del cosiddetto lockdown su tutto il territorio nazionale. Seguono poi Francia, Irlanda e Regno Unito, ma uno dei dirigenti di questa agenzia ha detto: sempre più persone sono alla ricerca di opportunità che consentono di lavorare anche da casa, e adesso sarà importante notare e osservare se anche i datori di lavoro risponderanno con maggiori offerte di lavoro a distanza, soprattutto nei settori e nelle professioni in cui si è riscontrato appunto che non solo è possibile lavorare da remoto, ma comunque la produttività rimane inalterata, se non addirittura aumentare in certi casi. Mauro. Ma infatti InfoJobs ha fatto un'indagine sullo smart working 2020 2020, l'InfoJobs è una piattaforma appunto per la ricerca di lavoro, e risulta che il 72% delle aziende ha messo a disposizione in tempi molto brevi, direi anche brevissimi, mezzi, strumenti per consentire di proseguire il lavoro da remoto. Però è chiaro che un po' non tutte le mansioni possono essere svolte da remoto, e io davanti a me, al di là del vetro, ho una testimonianza vivente, appunto, sì. Andrea Roccabella, che ringrazio, come ringrazio e ringrazio con lui tutti i tecnici che ci consentono di andare in onda. Il, diciamo, non tutte le cose possono essere svolte da remoto, e quindi alla fine i lavoratori italiani effettivamente in smart working sarebbero il 15% della forza lavoro. Il 56% delle aziende che si è attivato l'avrebbe poi applicato per la prima volta, e quindi questo ha creato un bel po' di difficoltà. Forse questo 15% mi sembra basso. Tu che ne dici, Deborah? Può darsi appunto che ancora, come dire, ci sia una sottostima rispetto alla maturazione di questo fenomeno. Probabilmente fra qualche settimana avremo dei dati, delle analisi più circostanziati. Tornerei sul mondo dei collaboratori familiari, colf e badanti, che noi stiamo tenendo sotto stretta osservazione, Mauro, perché è una delle pochissime categorie che sono rimaste completamente escluse da tutte le provvidenze che sono state varate dalle ultime misure governative. E ancora una volta ricordiamo che stiamo parlando di un esercito di 860.000 persone che lavorano nelle nostre abitazioni in regola, e poi ce ne sono altri 1.200.000 appunto stimati in nero, ma nero o bianco, qua sono tutte persone che in questo momento non possono recarsi nel posto di lavoro, cioè presso le famiglie, non possono prendersi cura dei bambini, non possono prendersi cura degli anziani, perché anche loro devono rispettare i provvedimenti di distanziamento sociale, ma in questo caso appunto mantenere tutte le tutele a queste persone è più faticoso. E quindi il Sole 24 Ore oggi, in un pezzo di Michela Finizio e Valentina Melis, pagina 32, molto interessante, spiega appunto questo articolo quali sono tutte le possibilità che in questo momento le famiglie come datore di lavoro appunto hanno per cercare di intanto mantenere eventualmente aperto il rapporto di lavoro con queste persone, e quindi possono utilizzare ferie arretrate, permessi, anche aspettative non retribuite. Ma in ogni caso c'è un pacchetto di richiesta che le associazioni dei datori di lavoro domestico stanno preparando appunto per il governo, da presentare appunto nelle prossime ore al ministro del lavoro Nunzia Catalfo, che ha annunciato che nel prossimo decreto di aprile verrà appunto introdotta una forma di ammortizzatore sociale per i lavoratori del settore, per cui vi daremo conto di tutte le novità, perché ci sono moltissime famiglie che ci stanno scrivendo e che non sanno più come regolare a questo punto la relazione con queste persone che magari per mesi, se non anni, hanno aiutato in casa e adesso di punto in bianco devono addirittura risolvere spesso anche drasticamente il rapporto di lavoro, perché non c'è nessun tipo di ammortizzatore che le possa sostenere in questa fase. È così, Deborah. Allora speriamo che questo decreto aprile, oramai lo chiamiamo così, il decreto appunto che ci è stato annunciato già nella giornata dell'altro ieri, sappiamo che è ancora in fase di scrittura, quindi si è detto senza polemica, aspettiamo di vederlo poi sulla Gazzetta Ufficiale per capire com'è la declinazione di tutti questi aiuti, soprattutto della erogazione dei finanziamenti alle imprese, ma anche per questa categoria di lavoratori. Nel frattempo il Sole 24 Ore oggi in edicola, ma anche disponibile in versione digitale naturalmente per gli abbonati, presenta questo allegato, questo focus, decreto coronavirus, le misure per le famiglie. Lo esibisco a beneficio di coloro che mi seguono via Facebook e quindi possono anche vedere materialmente il prodotto. E è un riepilogo di tutto quello che c'è nell'articolo 18, nel decreto legge 18 per quanto riguarda il sostegno alle famiglie, e completa il trittico che è stato fatto proprio in questi giorni con il fisco, il lavoro e adesso appunto le misure dedicate. Cara Deborah, io vedo che sono già in lista d'attesa i nostri illustri ospiti, ovviamente di valore mondiale, sì? E allora con il tuo permesso manderei la sigla del mercoledì, la sigla che ci tiene compagnia tutti i mercoledì. Investire informati. Il 2020 sembrava cominciato sotto i migliori auspici, quando il cigno nero della diffusione del Covid-19 si è abbattuto sui mercati, provocando un brusco riprezzamento delle attività finanziarie, alla luce delle negative conseguenze economiche sull'economia globale. Un investitore deve preoccuparsi di questi movimenti? Certo, vedere il valore del proprio patrimonio che scende non è divertente, inutile negarlo. specie in un caso come questo, in cui l'ansia riguarda la sfera personale prima ancora che quella finanziaria. Eventi improbabili come questo, però, possono succedere nel corso della vita di un investimento. La storia di mercati insegna che poi questi trovano sempre il modo di recuperare. Lo stesso 2008, che sembrava la fine dei mercati finanziari, visto col senno di poi, è stata invece un'incredibile occasione d'acquisto. La cosa più importante è sempre che l'investimento sia guidato da un processo, da un piano, non dalle emotività di decisione prese in momenti di panico. Per il resto, il consiglio è quello di seguire il meno possibile l'evoluzione giornaliera dei mercati, interloquire quanto più possibile con il proprio consulente per esporre i propri timori, valutare potenziali interventi sul proprio portafoglio, rivedere la propria pianificazione in caso di variazioni sostanziali dei propri obiettivi di vita, ma soprattutto valutare insieme, laddove possibile, di cogliere di opportunità di acquisto che i mercati orso hanno sempre storicamente offerto. E questa era la nostra pillola del giorno di Investire Informati, perché come vi ricorderete nei giorni passati abbiamo lanciato questo piccolo contest fra il mondo della consulenza finanziaria. Abbiamo chiesto agli amici che ci aiutano anche appunto a gestire le preoccupazioni finanziarie degli ascoltatori in questo momento di regalarci un consiglio al giorno, e quello che avete sentito era il consiglio di Fabio Perna, consulente autonomo di Tivoli, titolare dello studio che ha un bellissimo nome: Cura i tuoi soldi. Mauro, adesso possiamo partire con la rubrica del mercoledì. Andiamo. Dov'è il nuovo lavoro? Poi bisognerà poi vedere se è il caso di cambiare la sigla, fare dov'è finito il lavoro, ma speriamo di no. Lo chiediamo in rigoroso ordine alfabetico, li presento e poi li sentiremo, cominciando però in ordine inverso. Allora, è di nuovo con noi Enzo De Fusco, oramai quasi un conduttore aggiunto, consulente del lavoro, esperto della materia anche, ohimè per lui, ahi lui, anche della materia del decreto legge numero 18. Buongiorno De Fusco. Buongiorno, bentrovati, grazie. E poi è collegato Alessandro Ramazza, che è il presidente di Assolavoro. Buongiorno, buongiorno presidente. Buongiorno a voi. E cominciamo proprio da lei, presidente Ramazza, perché vorremmo capire allora la particolare gestione del lavoro per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione. Come sta funzionando, cosa sta succedendo in questo particolare ambito? Sta succedendo che i lavoratori che sono presso aziende che aprono la cassa integrazione, anche loro devono avere un ammortizzatore sociale, e ce l'hanno con il fondo di solidarietà bilaterale del nostro settore. Noi abbiamo oggi più di 100.000 lavoratori in ammortizzatore sociale che saranno sostenuti con il finanziamento diretto nella busta paga che riceveranno il 15 di aprile. Siamo riusciti molto tempestivamente a costruire questa procedura. Noi agenzie eroghiamo direttamente ai nostri dipendenti per un valore complessivo di 60 milioni di euro e per circa 5 milioni di ore di assenza. Quindi siete in grado di dare un sostegno che in qualche modo garantisce la continuità per i lavoratori delle agenzie, è così? Esattamente, garantisce la continuità retributiva in un momento come questo. Sostenere le famiglie credo che sia un dovere di tutti in questo paese, e dall'altro anche una continuità professionale, che purtroppo però la legge non ci aiuta in questo, e sarebbe bene che fossero presi adeguati provvedimenti per permettere la proroga dei lavoratori a tempo determinato anche in quelle aziende che hanno aperto la procedura di cassa integrazione. Certo, perché prego Deborah. Sì, no, stavo ascoltando appunto con interesse le dichiarazioni di Ramazza e anche il ruolo che hanno avuto in questo momento le associazioni, non le associazioni, le agenzie per il lavoro tutte, e di conseguenza anche l'associazione appunto che le rappresenta, che è Assolavoro, una delle associazioni che rappresenta le agenzie per il lavoro. Ma mi stavo chiedendo anche, dottor Ramazza, oltre al fatto di essere stati molto snelli, operativi e funzionali per garantire anche da parte vostra l'erogazione degli ammortizzatori ammortizzatori sociali ai lavoratori che lavorano grazie al vostro intervento. Mi stavo chiedendo, anche legandoci alla prima parte della nostra trasmissione, se in questo periodo siete stati altrettanto operativi, avete dovuto erogare molta consulenza a tutte le aziende per quello che riguarda appunto la necessità di lavoro smart working, e cioè appunto anche all'interno di molte aziende appunto sappiamo che si sono dovuti riorganizzare completamente. Quindi in questo momento come avete gestito anche questa tematica per quello che riguarda tutta la vostra clientela, che generalmente è proprio composta da aziende, quindi la parte datoriale, datori di lavoro? Beh, parto dal fatto che noi stessi lavoriamo tutti in smart working praticamente in questo momento. Il suo lavoro rappresenta l'85% del settore, quindi sono almeno più di 10.000 i nostri dipendenti diretti che seguono le aziende che lavorano da casa, e non abbiamo avuto disfunzionalità. Quindi questo è un fatto decisamente nuovo, che domani potrebbe cambiare anche il profilo stesso del nostro modo di essere. Le aziende ci hanno chiesto consulenza su come fare lo smart working, perché molti di noi già lo adoperavano. E dall'altro lato ci hanno chiesto anche profili professionali, perché ci sono tutti i settori, da quello sanitario a quello dell'agroalimentare a quello della grande distribuzione, dei trasporti, che oggi hanno bisogno di personale in maniera più consistente di prima. Quindi stiamo assistendo le aziende in modo decisamente consistente. Stanno continuando, mi immagino, anche le candidature presso le agenzie, ed è possibile? È così? Sì. Tenga conto che già normalmente le candidature arrivano attraverso il web e che i colloqui si possono fare via Skype o qualsiasi altro tipo di piattaforma attraverso il video dei computer. Quindi sia l'attività di ricerca, l'attività di ricevimento dei curriculum e l'attività di colloquio può essere continuata esattamente come prima. Quindi nelle agenzie che aderiscono poi ad Assolavoro, che lo diceva prima Deborah, l'Associazione Nazionale di Categoria, diciamo che l'urto del coronavirus è stato parzialmente attenuato sia da questa modalità gestibile di smart working, sia anche dal fatto che ci sono ovviamente anche candidature che si creano proprio in ragione di questo terremoto che accade nel mondo del lavoro, Presidente Ramazza. Certo, noi in un certo senso stiamo sostenendo il sistema fornendo personale adeguato sia alle strutture sanitarie che alle altre realtà che devono operare in queste condizioni di emergenza. Deborah. Un'ultima domanda al dottor Ramazza, e mi rifaccio ad una richiesta che c'era arrivata da un'ascoltatrice su Facebook, Carmela, che ci aveva chiesto quali sono le misure per chi lavorava tramite agenzia del lavoro interinale o cooperativa ed è stato licenziato. Bisognerebbe chiaramente avere qualche dettaglio in più rispetto a questo particolare rapporto di lavoro, ma dottor Ramazza, non potendo dare direttamente una risposta a questa ascoltatrice, dovendo probabilmente avere qualche informazione in più su quello che era il suo status di lavoratrice in questa fase precedente al licenziamento, le chiedo: quando un lavoratore si trova in queste condizioni, un lavoratore che lavora in un'azienda ed è stato somministrato da un'agenzia per il lavoro, ha bisogno dell'ammortizzatore sociale, deve fare delle richieste particolari o si attiva direttamente l'azienda / l'agenzia per il lavoro per il lavoratore stesso? Come dicevo prima, noi vorremmo cercare di fare in modo che coloro per i quali il loro contratto sta scadendo in questo periodo e sono presso aziende che sono in cassa integrazione possano essere prorogati. Purtroppo la norma non è chiara e non ce lo permette precisamente in questo momento. Stiamo chiedendo di cambiarla perché questa cosa è urgente. Se invece comunque si conclude il contratto e hanno più di 3 mesi di anzianità, ovviamente potranno chiedere l'ammortizzatore sociale alla NASPI. Se sono con noi e continuano a lavorare con noi, a essere sotto contratto, e però sono sospesi dal lavoro, riceveranno quell'indennità di cui ho parlato all'inizio, cioè una sorta di cassa integrazione del nostro settore. Ricordo che probabilmente il nostro sarà l'unico settore che riuscirà a dare a tutti i lavoratori coinvolti il 15 di aprile l'indennità. E allora noi la ringraziamo, ringraziamo il presidente Alessandro Ramazza, presidente di Assolavoro. Vi segnalo che sul sito assolavoro.eu è presente anche una sezione specifica dedicata proprio ai provvedimenti Covid-19, per i provvedimenti appunto che interessano in particolare il mondo del lavoro. Grazie presidente Ramazza. E adesso Deborah, vedo che i mercati, le borse insomma, fanno i capricci, sì, anche questa mattina. Colpa dell'Eurogruppo. È colpa dell'Eurogruppo. Ah, allora raccontacelo, però per bene, mandiamo una sigla apposta. Lasciamo perdere, va là, che siete entrati in un campo minato che è meglio evitare. Due di denari. Il mercoledì con Rusciani e Meazza, il Covid ci fa una mazza. Dai, non perdiamo almeno la voglia di scherzare, di fare un pochino di ironia finché ci riusciamo naturalmente. Deborah, passiamo al nostro esperto Enzo De Fusco, oramai una presenza, una voce costante qui a Due di Denari. Te lo voglio introdurre il suo contributo alla puntata di oggi con un messaggio WhatsApp che mi piace molto riferire. Filippo ci scrive e ci dice: vi seguo costantemente tutti i giorni dal piazzale del mio distributore di carburante in questo periodo particolarmente deserto, ma io mi ostino a essere presente per quei pochi clienti che hanno modo di circolare e quindi hanno bisogno della mia presenza. Sono presente non solo a marzo ma anche ad aprile. Volevo chiedere delucidazioni per il bonus dei 100 euro, e vi ringrazio comunque per la compagnia che mi tenete. Pronti. Questo è Filippo, che salutiamo naturalmente. Filippo che sta al suo distributore di carburante in attesa dei pochi, purtroppo pochi clienti. Enzo, ma per una situazione del genere il bonus da 100 euro può essere previsto? Il bonus da 100 euro per chi è rimasto al lavoro, è dovuto andare al lavoro anche in questo periodo? Eh sì, direi che Filippo è proprio un esempio che è stato in qualche modo ispiratore dei 100 euro previsti dal decreto. E quindi tutti coloro che hanno reso una prestazione diciamo normale, tradizionale nei luoghi di lavoro con tutte le loro caratteristiche, quindi possono essere andati in trasferta, possono aver svolto una missione oppure come Filippo è stato lì sul suo piazzale in attesa dei clienti. Ecco, in tutti questi casi si ha diritto ai 100 euro e l'agenzia invece dice, l'Agenzia delle Entrate, che chi ha beneficiato dello smart working, che è questa formula a distanza di rendere la prestazione, in questo caso, così come nel caso delle ferie o della malattia, quindi che non ha reso la prestazione tradizionale, allora non possono beneficiare dei 100 euro. E questi soldi si vedranno con la busta paga di aprile. Allora, però sono dovuti solo cioè in questo momento il riferimento normativo è solo per il mese di marzo, dico bene De Fusco? Sì, sì, sono 100 euro diciamo al momento una tantum per questo periodo e appunto ribadisco i datori di lavoro dovranno riconoscere in modo automatico sulla busta paga di aprile questa somma. Poi vediamo, può darsi che se ci sono soldi verrà riconosciuto un ulteriore importo per il prossimo mese con il prossimo decreto. Ecco, vediamo. Me lo auguro soprattutto per tutti coloro che hanno fatto un po' Mauro da badanti di nostra prossimità in questo periodo, no? E quindi ci sono possiamo dire che questi 100 euro sono esenti da imposte, quindi sono netti. Questo non è un dettaglio. È un dettaglio, andava detto. Però c'è un limite di reddito, giusto De Fusco? Sì, perché non vengono sì. erogati a pioggia come altri contributi, cioè senza guardare il livello di reddito. Questo invece sì. è legato al reddito. Questo è legato al reddito. Lo scorso anno non bisogna aver avuto un reddito superiore a 40.000 euro e quindi questo se il rapporto è con lo stesso datore, il datore di lavoro lo conosce. Se nel frattempo si è cambiata azienda, il lavoratore dovrà attestarlo per iscritto al nuovo datore di lavoro che lui lo scorso anno ha avuto un reddito all'interno di questo limite. Peraltro aggiungo una delle precisazioni dell'Agenzia delle Entrate, che se questo datore ha avuto, se questo lavoratore ha avuto oltre al reddito normale anche un premio detassato, quelli con la formula del 10% con l'aliquota sostitutiva di cui tante volte abbiamo parlato anche sul Sole 24 Ore, ecco, questa componente di reddito, quella del premio, è esclusa dal limite, quindi insomma una risposta positiva da parte dell'agenzia. C'è la norma, Mauro, che fa anche questa precisazione: il premio non deve essere influenzato dalla tipologia di contratto, e cioè il part-time orizzontale, per esempio verticale o misto, vedrà lo stesso trattamento del tempo pieno. Faccio questa precisazione, De Fusco, perché mi stavo chiedendo se per ottenere e per avere la garanzia appunto di avere questo bonus nella busta paga di aprile sarà stato necessario avere una presenza continuativa in azienda, perché molto spesso magari per avere una presenza fissa e fisica in azienda, in realtà molte aziende hanno consentito ai propri datori di lavoro magari di organizzarsi alternando la presenza fisica in azienda, ma non hanno comunque fatto lo smart working totale da casa, quindi non presenza costante magari quotidiana ma in alternanza fra colleghi. Ecco, in questo caso secondo lei 100 euro arrivano precisi e netti per tutti, anche se la modalità di presenza sul lavoro è stata un po' frastagliata? Beh, direi di no, perché la norma, allora, se è irrilevante la tipologia contrattuale, part-time o full-time, ma mentre l'agenzia spiega nei suoi chiarimenti, quindi con la circolare 8 del 3 aprile 2020 per gli amanti dei numeri, questa circolare spiega che è importante che la prestazione sia resa nei luoghi di lavoro. Quindi se sono state alternate giornate in azienda con giornate in smart working, allora il datore di lavoro… Lo smart working prevale. Lo smart working esclude la quota parte di beneficio, quindi ipotizziamo 20 giorni in azienda e 10 giorni in smart working, il datore dovrà proporzionalmente ridurre 100 euro rispetto alle giornate effettive svolte in azienda, escludendo quindi lo smart working. Mentre se l'assenza è per ferie, questo non influisce sul calcolo dei 100 euro, ho capito bene, De Fusco? No, le ferie escludono secondo la posizione dell'Agenzia delle Entrate. No, ma parzialmente per ferie intendevo, cioè 24 giorni lavorati, 2 di ferie. 24 giorni lavorati e 2 di ferie avrà 100 euro riproporzionati. Riproporzionati con questi due. Tra l'altro era una domanda che ci è arrivata proprio, sai Debora, sul tamburo da un messaggio WhatsApp al 349-238-6666, dice: allora ho diritto a questi 100 euro in proporzione. Era un ascoltatore che dice: ho fatto 2 giorni di ferie, quindi un tredicesimo, avrà 12 tredicesimi dei 100 euro, facendo così una proporzione al volo, no? Più o meno. No, mi spiego meglio. La circolare, dice che, cito testualmente, così può essere avuto, in considerazione della finalità della norma, che vuole premiare i dipendenti che hanno continuato a prestare l'attività lavorativa, non devono considerare nel rapporto né al numeratore né al denominatore le giornate di ferie o di malattia. Quindi sostanzialmente, secondo l'agenzia, queste giornate sono neutralizzate ai fini del calcolo. Ok, quindi questo ascoltatore che ha sempre lavorato in sede, quindi mai da remoto, ma aveva 2 giorni di ferie, ha usufruito di 2 giorni di ferie, ha diritto al gettone, chiamiamolo così, al per gettone, capirci, sì. Pieno, intero. Esattamente. Benissimo, scusate, ho fatto un po' di confusione, ma forse magari può essere stato utile anche per qualche ascoltatore che si era perduto, certo, come me, insomma. Debora. Un'ultima domanda, poi passiamo al tema della 104, per la quale, Mauro, ti preannuncio che abbiamo anche una mail di un'ascoltatrice che si chiama Daniele, che poi leggerò, che ha bisogno di chiaramente chiarimenti proprio su questo. Questo è il premio di 100 euro che lo Stato contempla, appunto, che va riconosciuto alle persone che hanno lavorato in azienda per tutto il mese di marzo, da quando è scoppiata la pandemia. In questo mese però ci sono state anche tante iniziative individuali e spontanee da parte di datori di lavoro, appunto, che hanno autonomamente riconosciuto dei premi ai lavoratori che sono dovuti rimanere al lavoro per garantire, appunto, l'operatività di quelle aziende indispensabili in questo momento. Parlo dell'agroalimentare, il settore farmaceutico e tanti altri. Questo per arrivare a chiederle, De Fusco, naturalmente 100 euro a parte, per tutti gli imprenditori, i datori di lavoro che vogliano erogare un premio per conto loro, ovviamente hanno tutta la possibilità per poterlo fare in questo momento. Sì, in presenza della necessaria liquidità possono farlo tranquillamente, certo. Quindi anzi. E si aggiunge ai 100 euro se un imprenditore dà 200 euro ai suoi lavoratori che hanno lavorato e garantito l'operatività degli impianti a marzo, i 100 euro in più sono comunque obbligatori? No, quelli previsti dalla norma? I 100 euro dello Stato sono una somma finanziata dallo Stato e quindi quella va riconosciuta ai lavoratori nei termini che la norma stabilisce, quindi in esenzione di imposta e senza pagare i contributi. Poi se il datore di lavoro vuole aggiungere qualcos'altro, può farlo applicando le normali regole di tassazione e di contribuzione che sono previste dal testo unico. Quindi direi che si può aggiungere, ma non togliere i 100 euro previsti dalla legge. Allora, vi fermo per qualche istante perché dobbiamo ascoltare le condizioni di viabilità. Torniamo subito dopo il traffico per parlare dei permessi da legge 104. Traffico. Due di denari. Torniamo a farci spiegare da Enzo De Fusco, consulente del lavoro, oramai una voce abituale per gli ascoltatori di Due di Denari, come funzionano alcuni dei supporti, dei sostegni fissati dal decreto legge cosiddetto Cura Italia, il decreto legge 18 del 17 marzo scorso. Allora, vorrei aprire insieme all'ausilio delle ascoltatrici che ci preannunciava Debora il tema dei permessi da legge 104. Debora, che cosa ci chiedeva Daniela, se ricordo bene? Allora, lavoro in un'azienda privata che dal 26 marzo, in seguito alle misure del governo, ha deciso di chiudere tranne alcuni reparti, chiedendo ai dipendenti di smaltire le ferie del 2019 e poi fare cassa integrazione. Io ho diritto ad usufruire della legge 104 dall'ottobre scorso, dall'ottobre 2019, e pertanto dal 26 marzo ho richiesto i 18 giorni totali previsti dal decreto Cura Italia da smaltire su marzo e aprile, avendo l'azienda comunicato la chiusura fino al 13 aprile, come hanno appunto imposto le norme statali. Ora l'ufficio del personale mi comunica che in aprile non effettuerò nemmeno un giorno di lavoro, i permessi e quindi i permessi della legge 104 non saranno riconosciuti. Che se in aprile non effettuerò nemmeno un giorno di lavoro, i permessi della 104 non saranno riconosciuti. Voglio sapere se questa loro informazione, indicazione è corretta. Specifico che fino al 25 marzo ero in smart working e potrei benissimo continuare a farlo se l'azienda lo concedesse. De Fusco, allora, quali temi pone questa sollecitazione di questa ascoltatrice? I temi che pone sono diversi e per chiarirci dobbiamo partire da qual è la regola che si applica ai giorni dei permessi, quindi della legge 104, quello che oggi consideriamo base, quindi i tre giorni, no? Quindi su queste assenze l'INPS ha dato delle istruzioni e ha detto che bisognerà necessariamente riconoscerli per intero se c'è ad esempio un part time di tipo orizzontale. Poi se invece c'è un part time verticale, allora bisognerà rapportarli ai giorni di presenza, quindi ai giorni contrattualmente stabiliti, anche se su questo punto la giurisprudenza, con due sentenze molto recenti della Cassazione, ha detto che l'INPS ha torto. Anche in caso di part-time verticale andrebbero riconosciuti interamente, ma l'INPS ancora non ha cambiato la propria posizione. E poi c'è un'altra indicazione, quella della assenza per cassa integrazione. L'INPS ritiene che in presenza, in coincidenza nel mese tra cassa integrazione e richiesta dei permessi e quindi con lavoro, in questo caso i permessi vanno riproporzionati, quindi al periodo di effettivo lavoro. Questa è la regola generale. Ora ci sono sostanzialmente 12 giorni aggiuntivi. I 12 giorni aggiuntivi possono essere utilizzati sia a marzo che a aprile, mentre i giorni base, i 3 giorni, debbono continuare ad essere riconosciuti in ciascun mese di riferimento. Non è un credito che ci riportiamo poi al mese dopo, quindi già questa distinzione va fatta. Ora, quello che in genere dalle istruzioni che sono state date sembra che i giorni aggiuntivi, i 12 previsti dal decreto 18, su questi giorni bisognerebbe applicare le stesse regole. Però devo dire che questa indicazione molto, molto sottile, soprattutto non proprio espressamente dichiarata dall'Istituto, si comprende da alcune parole. Però questa posizione lascia qualche perplessità, proprio perché anche per come è stata finanziata la prestazione, se andate a vedere la relazione tecnica, si vede in modo chiaro che queste 12 giornate sono state finanziate per tutti i lavoratori che ad oggi fruiscono dei permessi 104. Quindi sembrerebbe voler dire che il governo si aspetta che questi 12 giorni siano riconosciuti interamente. Certo. Invece è evidente che molti applicheranno la cassa integrazione, quindi tutti quelli che applicheranno la cassa integrazione vedranno svanire questa possibilità, e io non credo che sia la logica del decreto. Allo Stato è presente un quesito all'INPS e al Ministero del Lavoro a cui attendiamo risposta, quindi purtroppo al momento non c'è una risposta chiara se in presenza di cassa integrazione queste 12 giornate debbono essere ragguagliate oppure no. Debbono essere, sì. Invece se l'azienda prosegue, per così dire, normalmente, insomma tra smart working e altro, la lavorazione, i 12 giorni che lei ci ha detto tra marzo e aprile, se non ho fruito nulla di questi 12 a marzo, posso fruirli tutti ad aprile? Assolutamente sì. Mentre i 3 giorni che spettano di regola, al di fuori di questi 12, se non fruiti a marzo non sono trasferibili su aprile, ho capito bene? Quelli sono 3 giorni per ciascun mese di riferimento, quindi la possibilità in più che dà questo governo è quello di avere 12 giorni aggiuntivi da utilizzare su entrambi i mesi, quindi a scelta del lavoratore, però se interamente o riproporzionati alla cassa integrazione, che evidentemente ci sarà in quasi tutti i casi, su questo punto dobbiamo attendere, perché oggettivamente la norma si potrebbe prestare ad una lettura in entrambe le ipotesi. Certo, più restrittiva, diciamo così, e quindi c'è la cassa, niente 12 giorni, se invece oppure potrebbe anche essere no, la cassa non va a inficiare sui 12 giorni, ma su questo il bisticcio mi sembra di capire è già arrivato anche nelle aule dei tribunali, quindi non è semplice da dirimere, per usare un linguaggio un po' forbito, giusto De Fusco? Sì, esattamente, il bisticcio è arrivato già nelle aule dei tribunali, con riferimento in particolare al part-time verticale, e il bisticcio ha già dato torto all'istituto, quindi la Cassazione ha dato un messaggio: attenzione a questo criterio di riproporzionamento, perché queste sono giornate di tutela che debbono essere riconosciute interamente ai lavoratori, motivo per cui lo stanziamento finanziario nel decreto 18, quindi nella parte della relazione tecnica, presuppone il consumo di tutte le giornate per ciascun beneficiario. Quindi è lo stesso parametro, se vogliamo, e chiudo, che ha usato l'INPS per interpretare che i permessi che possono, le tipologie di permessi che possono beneficiare anche delle 12 giornate non sono solo quelle relative all'assistenza di un familiare, ma anche nell'ipotesi in cui questi permessi sono beneficiati dal soggetto diversamente abile, quindi il cosiddetto comma 6. Non era previsto nella legge, però proprio per questo modello di stanziamento finanziario l'INPS è arrivato a dire vabbè, lo possono riconoscere anche loro. Abbiamo un ascoltatore, Deborah. Esatto, vedo che ci ha raggiunto Paolo da Roma, ritorna per la verità sul tema precedente, ma gli rispondiamo molto volentieri perché in realtà ci fa ragionare anche di nuovo sulla categoria dei collaboratori familiari. Paolo, benvenuto. Benvenuto a voi. Ci chieda. La domanda appunto era se il premio di 100 euro riguardasse anche la categoria dei collaboratori familiari e più precisamente per un contratto di 25 ore settimanali, sì, un part time di 25 ore settimanali, se per la precisione si può rispondere a questo. Certo, lo giriamo subito a De Fusco, preciso solo le 25 ore, ma se vedete la pagina di oggi del Sole 24 Ore è spiegato molto bene, è un po' uno spartiacque nel calcolo dei contributi e anche nell'applicazione di alcuni istituti del contratto. De Fusco, i 100 euro per le colf, temo di no, ma ci dica lei una parola. 100 euro per le colf, direi che la norma si esprime in maniera abbastanza chiara, perché qua dice che spetta ai titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno questo reddito nell'anno precedente di 40.000 euro e per il mese di marzo appunto viene riconosciuto un importo dei 100 euro. E poi dice la norma che il sostituto d'imposta lo riconosce in automatico, quindi quasi individuando un soggetto, cioè che il datore di lavoro deve essere un sostituto di imposta, quale non è il datore di lavoro domestico. Quindi non c'è un'esclusione, perché nel comma 1 di questa norma parla di reddito di lavoro dipendente e in effetti in quell'ambito si produce un reddito di lavoro dipendente, perché è un rapporto a tutti gli effetti di lavoro dipendente, però allo stesso tempo non soggiace a quella regola della sostituzione di imposta e quindi se questo prevale evidentemente il domestico non ha diritto al premio. Purtroppo, due messaggi, prego. Mauro, non so se ce la abbiamo facciamo. Abbiamo un minuto, sì. Prego. Io ho lavorato tutto marzo in un supermercato tra 30 e 31 perché malattia. Ho diritto ai 100 euro? Credo assolutamente di sì, De Fusco. Non ho capito, mi è saltata la comunicazione. Quasi tutto il mese tranne il 30 e il 31, tutto perché il mese di marzo, perché in malattia. Ma sì, ha diritto, direi, possiamo dire che certo. Mettendo insieme due argomenti, fruisce della 104, ha diritto ai 100 euro, se a marzo ha lavorato sempre, ha fruito solo dei 3 giorni di permesso della 104, i 100 euro arrivano? Immaginiamo di sì. Allora, se la legge 104 deve penalizzare un lavoratore, beh, insomma, questo rimarrei molto sorpreso. Quindi direi positiva. Sì. Grazie Deborah, tu sarai grazie collegata anche domani. Allora, penso di sì, dai, no, mi farebbe piacere. Domani parliamo di investimenti, risparmi, insomma è un momentaccio e quindi devi esserci assolutamente. Grazie a Enzo De Fusco, grazie a chi ci ha seguito, Andrea Roccabelli in regia, Luca Cremonese, Marco Lombardo, a domani. A domani.